ostinato errore, lasciar sicuro duce, che il piede errante al buon cammino ha scorto. Ecco è tempo, e consiglio, e presto il posto.